Assieme alla sorella Donatella guida il gruppo che porta il nome del fratello minore Gianni Versace, il celebre stilista morto nel 1997. È Santo Versace, classe 1944, nato a Reggio Calabria ed eletto alla Camera proprio in Calabria nelle liste del Popolo della Libertà. Per me le istituzioni non hanno colore politico, è un servizio lavorare con le istituzioni, anche perché quando uno diventa sindaco, diventa presidente o diventa governatore, non dovrebbe essere più di parte, è al servizio del cittadino. Se Gianni non fosse morto, io sarei entrato in politica prima. Noi avevamo in programma la quotazione della Versace che sarebbe avvenuta tramite la fusione e un aumento di capitale della Gucci, quindi avremmo avuto il primo gruppo italiano del lusso e la Gucci sarebbe rimasta italiana. E a quel punto, in 2 o 3 anni, io mi sarei occupato di quello che ritengo un dovere, occuparsi di politica. Se tu non, no, noi come cittadini non spingiamo e non la controlliamo e non ce ne occupiamo 24 ore al giorno, la politica ci massacra e lo stiamo vedendo. Con un'oppressione burocratica assurda e allucinante che non esiste in nessun paese civile, con un'oppressione fiscale che ha poche uguali al mondo, con una mancanza di legalità e di giustizia che non appare nei paesi civili. Quali sono i valori e le esperienze che intende portare in Parlamento? Io farò una battaglia, una rivoluzione culturale, voglio dire, che parta per cui le parole educazione, legalità e meritocrazia diventino patrimonio comune. Educazione vista a 360 gradi, cioè educazione al sacrificio, educazione al lavoro, educazione alla formazione permanente, educazione al rispetto degli altri, un'educazione in tutti i suoi campi, in tutti i suoi termini. La legalità, perché la legalità è la base della competitività, e lo sa chi vive nelle regioni malmesse, dove c'è malessere, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, e meritocrazia, perché la meritocrazia permette di utilizzare al meglio i talenti e le risorse, e quel che ha più talento e risorse trascina gli altri e crea ricchezza per tutti. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.